forse per Ibra il Milan sarebbe già in Serie B. Dobbiamo convocare la banda. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Tipo di partita è, calcolando che dall'altra parte c'è Ibra? Fa paura Ibra? Più che paura, bisogna stare attenti, perché comunque è un campione, è un giocatore che ha alzato la concentrazione a tutta la squadra e l'hanno dimostrato in queste partite. Ibra è un fuoriclasse, conoscendo poi il personaggio, la forza d'urto che può avere anche sui giovani, non era così facile. Invece ha trovato la maniera perfetta di capire proprio l'atmosfera dentro lo spogliatoio, di capire la delicatezza e nel momento in cui è arrivato al Milan, quindi lo ringrazieremo per tutta la vita, perché è tutto da rischiare. Noi c'è entusiasmo, c'è voglia di lavorare, c'è voglia di fare sempre quel qualcosa in più. Sicuramente la prepareremo come tutte le settimane, perché prepariamo le partite tutte allo stesso modo. È chiaro che un derby è comunque una partita a sé, dove non conta né classifica, né tattica, né moduli, né niente, e sicuramente si vincerà con il cuore, quindi cercheremo di metterci la tutta. Tra le parole, settimane che ci conduce al derby, tra le parole, discorsi relativi allo stadio, qualcuno dice potrebbe essere l'ultima di San Siro, non credo proprio. Adesso a quanto pare stanno decidendo di smontarne mezzo e rifare l'altro mezzo, non capisco niente. Quando sarà il momento, avranno deciso, forse ne parleremo. Intanto Pierluigi Pardo, buongiorno. Buongiorno. O migliore a Padolo, io metto in discussione la nostra unione professionale perché mi rovini l'immagine. Ti dico solo quello, perché il commento di Totti è stato piuttosto tranchant su questa partita, un Tevieri amoroso. Sì, e io gli ho anche risposto a Totti, ci aspetto la sua risposta, gli ho detto se vuole provare il brivido di perdere, vabbè, lanci sfide così alla Ibrahimovic. Credo che anche Andrea Di Caro, che è vice direttore della Gazzetta dello Sport, insomma, mette in discussione la necessità di parlare con uno che a padel gioca così, no Andrea? Beh, così mi sembra un grosso complimento. Ah, pure. Ma gli insulti, vuoi capire che per me 125 kg già giocare con dei miei coetanei, che però sono degli sportivi, cioè già un miracolo, capito? Ah, siamo agli haters, Totti è in buona compagnia, ho capito. Ma tu sei un racchettone più grande, più ampio rispetto a quello degli avversari. Ma siamo alle provocazioni proprio totali. Cioè siamo al doping della racchetta. No, se ne è parlato a lungo del doping della racchetta. Un racchettone. No, ragazzi, c'è cioè, la qualità. Carlo, cioè, anche perché il doping sul resto non si vede, per cui o lo fa sulla racchetta oppure siamo in difficoltà. Maliziosissimo, il direttore, maliziosissimo. Senti, Andrea, che effetto ti fa Christian Eriksen? Oggi, lunga intervista, due pagine sulla Gazzetta dello Sport, che effetto ti fa questo giocatore? No, perché umori dei tifosi, no? Gioca quei 10 minuti con la Fiorentina, abbiamo trovato come minimo un nuovo Snyder, non gioca benissimo a Udine, umore dei tifosi, mi sembrava, raccolto attraverso WhatsApp, mi sembrava di rivedere Ciriaco Sforza. Ah, vabbè, lasciamo ai tifosi la voglia di fare i tifosi, sì, le loro suggestioni, la loro voglia di parlare sui social, di chiacchierare, di dire la loro. Insomma, siamo in un mondo libero, ognuno può dire la fesseria che crede. Sì. T'ho detto, ieri sono stato da Eriksen, dall'Inter, insieme ai giornalisti della Gazzetta. Mi ha fatto un'ottima impressione l'uomo, innanzitutto, perché sul calciatore, diciamo, c'è poco da raccontare, è un giocatore importante. Possiamo cercare di capire, non conoscendolo direttamente, non avendolo visto giocare in Italia tutte le domeniche, fino a che punto è importante, se parliamo di un fuoriclasse, se parliamo di un campione, se parliamo di un grande calciatore, però stiamo comunque ragionando su dei livelli sicuramente alti di un giocatore che è chiamato a fare la differenza per il valore che ha. Mi ha colpito molto il ragazzo, l'uomo, perché è un uomo intelligente, si vede che è un uomo che ha girato, che ha avuto modo di girare il mondo, di vivere in una certa realtà, ragiona con la sua testa, ironico, non regala, diciamo, le frasi fatte, insomma, mi ha fatto una bella impressione. Mi ha fatto no, una ti bella chiedo impressione. Questo perché anche a me da lontano fa la stessa impressione. E siamo già a due, no? Perché Pardo la settimana scorsa ha intervistato insieme a Vieri Lukaku. Anche l'impressione su Lukaku è questo, comunque un cittadino del mondo, un ragazzo molto sveglio. I giocatori, il 99% dei giocatori sono così, poi c'è lo stereotipo, ma poi in realtà si rispettano, si stimano, ci può essere una rivalità dovuta al fatto che si affrontano, ci può essere l'adrenalina quando sono in campo che può portare qualche volta a esagerazioni di toni, di proteste, che fanno parte però dell'essenza del calcio, ma in generale poi i calciatori, soprattutto quelli bravi secondo me, sono onesti intellettualmente, sono onesti con i loro colleghi, sanno benissimo, riconoscere la forza degli altri. Quindi insomma sì, Lukaku lo sai, mi ha fatto una grandissima impressione, ma questo ormai è un'intervista di 2-3 settimane fa, ma sono tantissimi giocatori con i quali poi si conserva un rapporto, perché sono sicuramente gli uomini fortunati, hanno realizzato il sogno che avevamo tutti noi, io no perché con la fisica era difficile, però dico comunque sognare non costa nulla. E però insomma non è che questo li porti a essere automaticamente delle persone diciamo di basso livello culturale o di basso spessore, anzi comunque sono persone certamente fortunate, ma abituate fin da piccole a delle pressioni enormi. Certo, non è una vita, per carità, è una vita meravigliosa, ci mancherebbe altro, e firmiamo tutti, no? Però non è una vita semplice al 100%, no, soprattutto perché l'esperienza, continui esami e continue pressioni quando ancora magari non sei formato completamente dal punto di vista del carattere, questo è indubbio. Dimmi. Forse se posso aggiungere d'accordo con quello che ha detto Pierre, se posso aggiungere una considerazione, sono sicuramente ragazzi cresciuti più in fretta perché hanno appunto la necessità di misurarsi con platee, palcoscenici, stampa, media, pressioni, tutto quello che Pierre ha detto. La differenza però la può fare nel momento in cui ti trovi di fronte a ragazzi intelligenti e uomini intelligenti. Lukaku lo è sicuramente, perché lo si vede da come parla, da come si muove e quant'altro, è che più difficilmente magari si montano la testa, cioè sanno tenere un po' di più i piedi per terra, godendosi la fortuna che hanno, considerandola per l'appunto una fortuna, ma anche mettendosi maggiormente a disposizione. Poi è chiaro che non possiamo pretendere che un ragazzo di 25-26 anni, per quanto intelligente o maturo, possa non avere il suo scatto di nervi se viene sostituito e magari fa un gesto all'allenatore, perché quello è l'istinto, certo, è l'adrenalina, è il gioco. Però se hai uomini intelligenti, anche la sua leggerezza, anche il godersi la vita, cioè quello fa parte, ragazzi, va bene di loro, voglio dire. Però avere nello spogliatoio dei ragazzi intelligenti consente a un allenatore di potersi confrontare, di poter trasmettere le sue idee con più rapidità, e questo è fondamentale quando nel lungo periodo poi devi andare a vincere. Ma guarda, se parli ad esempio con Marco Crespi di reclutamento di giocatori, il reclutamento di giocatori si basa anche su parametri, almeno dal suo punto di vista, dal punto di vista di molti allenatori, nel caso del basket, ma in generale si basa anche su parametri che non riguardano soltanto il tiro da tre punti o l'attitudine al rimbalzo. Senti, invece, a proposito di umori dei tifosi, cioè ho un WhatsApp, anche quelli vocali, vi aspetto, 349-238-6666, che io e Pardo ne siamo ghiotti. Beh, WhatsApp scritto, poniamoci questa domanda: Ibrahimovic sarebbe titolare nell'Inter? Direi che sarebbe un normale panchinaro, non di lusso, in attesa della pensione, scrive un ascoltatore. È chiaro, Andrea, che il sogno bagnato dei tifosi del Milan in questa settimana, non solo quelli del Milan peraltro, è Ibra che decide il derby. Intanto giocherà, e questa è la notizia. Allora, diciamo una cosa, che quando hai Ibrahimovic è sempre difficile pensarlo a un panchinaro di lusso, perché per tipo di giocatore in panchina non ci sta malvolentieri. È chiaro che a sua volta Ibrahimovic, giustamente alla sua età, è andato a vivere l'ultima fase della carriera in un club che conosceva e che gli poteva permettere di essere ancora Ibrahimovic a tutti gli effetti, e quindi a non doversi alternare o non dover giocare una partita sì, una partita no. Quindi non so che cosa farebbe oggi Ibrahimovic nell'Inter, so che probabilmente Ibrahimovic avrebbe scelto comunque un'altra strada dove poteva sentirsi più importante. Poi ti chiederò soltanto una cortesia al termine del collegamento, 20 secondi, 30, non di più, per chiarire un aspetto, visto che appunto ieri sono stato da Eriksen invitato dall'Inter e quant'altro. Una mia dichiarazione in questa trasmissione all'inizio di gennaio so che ha fatto molto discutere. Ti dico so che ha fatto discutere perché io sui social ci sono in quanto guardo che cosa fanno gli altri, non partecipo un granché, allora, e ricevo notifiche soltanto da chi conosco. Facciamolo subito. Bene, vorrei chiarire una cosa, magari a molti ascoltatori non interessa perché non sono stati toccati dall'argomento. Io abbia modo di dire, in un ampio discorso che riguardava più squadre, il 10 gennaio, della difficoltà di molti club, la Juventus esclusa, anche se anche sulla Juventus si potrebbe poi discutere sui bilanci della Juventus, di poter prendere e comprare giocatori tirando fuori cash. E che per esempio era un discorso che riguardava il Milan, la Roma, il Napoli, altre tante squadre, compresa l'Inter, della quale dicevo che non a caso anche faceva un pochino di fatica a volte a chiudere delle operazioni. Perché? Perché ci sono dei bilanci da far quadrare, il che non significa che Suninga non abbia un impero alle spalle, ma ci sono comunque dei bilanci da far quadrare. E che in quel momento l'acquisto di Eriksen l'Inter non poteva permetterselo, non poteva permetterselo per quello che Eriksen chiedeva, per quello che era il budget a disposizione. Per aver detto questo, che era non soltanto una cosa scontata, ma vi aggiungo una cosa: quando si fa questo mestiere, come chi sta conducendo la trasmissione, come Pierluigi e come altri, e lo si fa fortunatamente con dei ruoli, diciamo, apicali, ma non è che si parla semplicemente per sentito dire o perché si sta al bar, ma perché si parla con i dirigenti, si parla con i presidenti, si parla con gli allenatori. Quindi le informazioni che si cerca di dare non sono le prime che vengono in mente, ma sono quelle che vengono anche trasmesse dai club. Non a caso l'Inter in quel momento era la prima a dire che l'acquisto di Eriksen sarebbe stato molto complicato, difficile e in quella fase non consentibile per quanto riguardava il budget a disposizione. L'Inter è stata brava, bravissima a limare per quanto riguarda il contratto di Eriksen, a limare per quanto riguarda le pretese del Tottenham e poi a fare delle scelte, perché arrivando Eriksen ha dovuto rinunciare ad altre cose e soprattutto nell'ultima fase, quando ha dovuto aggiungere del cash, è stata necessaria la cessione di Gabigol, che era prevista, e anche quella di Politano. Questo per dire cosa? Che tutti i club hanno la necessità di far quadrare i conti e che a volte a certi giocatori non ci arrivi, neanche se costano 3, 4, 5 milioni in più oggi, per come sono gestite le società, tranne qualcuna che ha, diciamo, gestioni differenti. Questo vale per l'Inter, per il Milan, per la Roma, per il calcio italiano. Se questo non fa piacere sentirselo dire a dei tifosi che vorrebbero una comunicazione semplicemente con la sciarpa al collo, pazienza, diciamo. Ma dopodiché, sicuro, in quel momento l'Inter, Eriksen, per l'Inter, non per Di Caro, per l'Inter, con cui Di Caro parla, non era in quel momento un acquisto possibile. Lo è diventato 20 giorni dopo. E sulla difficoltà, non solo per l'Inter, ma per tutte le squadre, a volte, di chiudere delle operazioni, sta nei fatti, perché poi molte operazioni che sembrano fatte non si chiudono. I giornali, e concludo, così come le trasmissioni radiofoniche o televisive, potrebbero cavalcare facilmente quelle che sono le emozioni dei tifosi o le esigenze dei tifosi o le richieste dei tifosi, perché io domani posso aprire la Gazzetta dello Sport dicendo che l'Inter va da Messi ed è pronto il contratto per Messi, in quanto Messi sta litigando con il Barcellona. Ma se faccio questo tipo di comunicazione potrò anche saltare le tifoserie. Ma Marotta 5 secondi dopo mi telefona perché mi dice: scusami, ma che cosa stai dicendo? Ma perché mi carichi i tifosi di aspettative che poi io in questo momento non sono nelle condizioni di poter andare a gestire? Ecco, poi dopodiché un pronostico, una previsione, un colpo di mercato lo puoi azzeccare, non lo puoi azzeccare, ma non è che lo dici perché c'hai la palla di vetro, il pendolino dell'amato Mosca, ma semplicemente perché parli con i dirigenti e a volte poi le cose nel tempo cambiano. Ma così, sai, si cerca di fare comunicazione. No, certo. Poi i social possono dire ciò che vogliono. No, ma poi guarda, il problema è che Pier, magari la gente pensa che noi si stia al bar tutto il giorno, magari, però al bar ci stanno loro e quindi Andrea, un po' diversi. Ha ragione, perché i social network e devo dire soprattutto Twitter, che io adoro fra l'altro, che per esempio poi in questi giorni di Sanremo, vedere Sanremo con Twitter è fantastico. E ha ragione Andrea quando fa un passaggio sul fatto della sciarpa al collo. Cioè io per dirti, stamattina ho fatto, poi ne parleremo penso, perché oggi è il 35esimo compleanno di Cristiano Ronaldo, ho riassunto i suoi numeri e giù a tutti i commenti, gente che dice ho fatto sta roba perché ho fatto sta roba, come l'ho fatta per Lukaku qualche mese fa dopo, se non sbaglio, la partita con lo Sparta Praga, perché mandava in quel momento di celebrare un campione e rivendico il diritto di poterlo fare o di poterlo anche non fare. Il problema che dice Andrea, secondo me è vero, ma ti ripeto, poi questi social network spesso, poi c'è il mondo reale fortunatamente, c'è la gente che paga il biglietto delle partite, che va a vederle, che incontri per strada, ed è completamente diversa. E è vero che ci sono tanti giornalisti con la sciarpa al collo che quindi prendono un ruolo talmente militante. Io rivendico il diritto invece di poter dire una volta una cosa a favore di uno perché la penso, una volta una cosa che farà piacere a qualcun altro perché la penso, e credo che sia l'unica strada possibile, sinceramente, con il massimo rispetto per tutti, però non c'è dubbio che i social network in questi ultimi anni abbiano dato una spinta a una parte del nostro mondo per diventare dei militanti che stanno da una parte o dall'altra, e ancora prima di leggere un tweet già sai che cosa si dirà. Tu d'altra parte frequenti questo studio, sai il tenore di certi rispetto, messaggi che arrivano, fa quello che gli pare, però mi piacerebbe insomma che ci fosse un pochino più di maturità in questo, no? Cioè, se uno oggi fa un tweet a favore di Ronaldo e domani fa con i numeri di Ronaldo celebrandolo, e domani fa celebra Messi o celebra Ibrahimovic, non è che una volta è un gobbo, una volta è un rosso nero, un tifoso del Barcellona, è semplicemente uno che ama questo gioco e ama i grandi personaggi, i grandi campioni di questo gioco. No, che poi se ti tirano in mezzo come alcuni protagonisti del calcio fanno o stanno facendo in queste ore, è un discorso molto difficile da cavalcare. No, ma lì è cronaca, capito? Cioè, quello che è successo dopo Juve Fiorentina, sì. È chiaro che è impossibile non parlarne, no? È impossibile non parlarne, però, perché quando c'è. Però sai benissimo qual è la reazione della gente, perché parlate di questo e come parlate di questo, insomma, ci proviamo. Insomma, volevo... c'è una cosa, chiudo veramente con la chiosa. Ha detto una cosa giusta, Pier, quando parla di rispetto. Ora c'è la libertà, parliamo di pallone, parliamo di calcio, parliamo di una cosa che scatena le passioni, e quindi sono anche, diciamo, consentiti degli eccessi passionali. Però quando si parla per l'appunto di rispetto, c'è un limite che non dovrebbe essere oltrepassato, perché avere un profilo Twitter, avere un'arena virtuale in cui poter esprimere la propria opinione liberamente, democraticamente, non significa poter scatenare non soltanto una sorta di odio inutile, ma anche di offese personali. Allora, quando si passa da quel punto di vista, chiunque abbia in mano, così come quando si ha in mano una penna o si ha in mano un microfono, ci si può confrontare, si può criticare, si può anche ironizzare, però non si può insultare, perché quando si entra nel discorso per cui c'è il libero insulto, si va proprio a modificare quello per cui i social network sono nati. Ora, non vogliamo educare il mondo e ne pretendiamo di fare la lezione, la morale a chissà chi, però oggi c'è una stura a un certo tipo di atteggiamento e di modalità con cui si usa un profilo, peraltro la maggior parte delle volte con un nickname che non prevede il nome esatto, che secondo me dovrebbe essere regolato per una sola ragione: non per limitare la libertà di opinione, ma per limitare la libertà di insulto che parte dai social network, che ti finisce sugli striscioni sotto casa di un giocatore e che nell'ultimo livello poi rischia di diventarti violenza all'interno dello stadio. Assolutamente, Andrea, ed è per questo che spesso noi proviamo ad avere rispetto, e spesso ci riusciamo, di tutti quanti che abbiano rispetto anche degli interlocutori. Ti chiedo un'ultima cosa invece, perché sono curioso ne hai scritto oggi, sono curioso di sapere la tua opinione in proposito. 11 esoneri in Serie A, con quello delle ultime ore di Corini sostituito da Lopez ieri il Torino, insomma si viaggia in questi giorni a un esonero al giorno. Non è questo che mi sorprende quanto il fatto che facciamo tendenza come al solito, perché mi sorprendono i dati di Premier 9 esoneri, Bundesliga 8 panchine saltate, Liga Spagnola 7, Liga 5. Facciamo moda anche in questo, mi pare. Guarda, lo scorso anno a questo punto della stagione erano 8, però poi ce ne sarebbero stati 3 nel giro del mese successivo, per cui diciamo ci siamo portati soltanto un pochino avanti. Indubbiamente ci sono delle scelte di alcuni presidenti, soprattutto, che conosciamo e sappiamo essere particolarmente umorali, che nel corso di una stagione ne cambiano 3 e prendono, Cellino cambiano, già dato, chiamano, sì. Cellino ha dato, Preziosi ha dato, vediamo se si fermano, se comunque ne portano avanti qualcun altro, e quindi loro ti fanno crescere la media. In altri casi c'è sicuramente sia la gestione di stagioni che magari non sono in linea con quelle che sono le aspettative, sia però tutto quel meccanismo di cui parlavamo anche prima, in cui in parte contribuiscono anche i media, quindi dai giornali alla TV o alle radio, e molto contribuisce anche l'ambiente che c'è intorno, perché ci sono esoneri che diventano inevitabili nel momento in cui si crea intorno a una squadra, a un allenatore, un ambiente di una tale ostilità che il presidente spesso è costretto anche a fare delle scelte non soltanto tecniche. Non faccio dei casi particolari, però da noi capita più spesso, perché c'è da questo punto di vista un'enfasi, un attaccamento, una cattiveria a volte che va al di là di quello che è il risultato sportivo. Andrea, io ti ringrazio, ti do appuntamento di persona domani quando avrò la fortuna di vederti a Cernusco, dove racconteremo da molti punti di vista, perché il derby di Roma, missione salvare professor Burioni dall'assedio mediatico del coronavirus. Parleremo leggermente invece di calcio, però io sono curioso di capire da 3 aspetti il suo, da tifoso illustre. Andrea Di Caro, da giornalista che ha raccontato 1000 volte e Nando Orsi da protagonista, sono curioso di vedere se riuscirò a svelare uno dei misteri per me dello sport, cioè il peso specifico enorme di questa partita. Grazie Andrea Di Caro. Adesso io vorrei fare una digressione, rapida digressione, su un processo che si sta svolgendo in queste ore nel mondo delle moto. The target this morning, we can say that is be the rookie of the year, to be more competitive on the track with the MotoGP, to know the feelings and every day growing up. If the sky comes falling down for you, there's nothing in this world I wouldn't do. Team presentation here in Indonesia is really important for Honda. Motivation is really high because you know, one more year we will try to fight for the title. Allora, questo è il cannibale Marc Marquez. È stata presentata ieri la nuova Honda. Continuo a pensare che non vorrei essere nei panni del suo fratellino, perché gli infilerà i denti nel collo, temo. Ciao Roberto Ungaro. Ciao, ben ritrovati a tutti, ciao Carlo. Cosa dici? Nuova Honda, dico, chiaro, dalle linee si può dire bella, brutta, colori sono quelli, non è che si può dire molto altro. Ma certo, cosa vuoi dire d'altro? Fa più parlare le foto che hanno mandato in giro ufficiali, quelle di Honda, perché per provare la spalla che è stata operata, sai, di Marquez, gli hanno fatto guidare una Moto 3 col motore della 450, si chiama Moto 3 Evo, è una categoria a parte, adesso non vado dentro nei dettagli tecnici, però c'erano delle foto dove Marquez la guidava come una Moto GP, moto di traverso, è una moto che devi guidare in punta di penna, farla correre, sai, e lui sembrava già giocarci, fare quello che voleva. Tra gli appassionati è quella la notizia, poi per il resto sulla carta, sai, da battere lui, bisogna capire cosa farà entro l'anno perché scade il contratto come tutti quanti, a parte quelli che hanno rinnovato. Si dice che l'uomo mercato adesso sia Dovizioso, perché è l'unico che tiene in mano appunto Ducati, che deve rinnovare, non ci sono piloti liberi, e quindi, ma cosa vuoi dire di Honda, Carlo? No, io voglio solo dire che non, rimango dell'idea che non so se ha fatto un gran favore al fratellino rookie nella MotoGP nel portarsi in scuderia con lui, perché è uno che non fa prigionieri nemmeno in famiglia, io ho l'impressione. Beh, ma è logico, però sai, forse io dico che tanto il rookie le prende comunque, lì le prende il doppio. Meglio prenderlo dal fratello. Però il fratello forse è un po' meno assassino dell'estraneo, che ci è il primo tuo nemico. Hai ragione, conoscendo il tipo. Senti Roberto, tema di queste ore, ne parlano molto i giornali, esatto. Stanno misurando tutti le foto sui social di Andrea Iannone per capire se quei muscoli sotto esame sono troppo gonfi oppure no. Ti do l'aggiornamento. Lui ha portato degli esami di un laboratorio di Torino molto molto diciamo approfonditi, un laboratorio specializzato che porta e analizza con un lasso temporale maggiore, e quindi, cioè, va indietro nel tempo e dichiara che lui appunto è pulito, era pulito anche a distanza di tempo maggiore. Questa cosa ha rimesso in gioco, cioè i giudici hanno detto ok, diamo ancora 10 giorni, cerchiamo di capire meglio, e quindi si riapre l'ipotesi che lui aveva sostenuto, cioè di carne in Asia in un periodo lungo di soggiorno che aveva fatto, si riapre, ma è solo posticipata di 10 giorni. Ora io dico che uno che salta i test perché non riesce a infilarsi il casco, perché c'è la mandibola gonfia, poi il comunicato ufficiale che aveva mal di denti, un problema in realtà si è rifatto, e lo vedete tutti com'è. Io senza scherzi, però per apparire bisogna soffrire, lo sappiamo tutti, però per noi comuni è la dieta, è non bere, nel suo caso per apparire bisogna rischiare. E quindi, cioè, è un'altra cosa, ha cambiato fisionomia, ha un fisico che non è più un fisico da motociclista, ma è il fisico di un ambassador, di un marchio, di un brand, magari di abbigliamento, di cosmesi. Il pilota deve essere, non esagero, anoressico, cioè deve avere la pelle attaccata a dei muscoli lunghi, sottili e non gonfi. E ma è, questo, è questa la domanda che ti fa? No, ma appunto, i piloti seguono la dieta delle modelle, lo sappiamo perfettamente, sia nella Formula 1 che nella, nelle moto. È pazzesco. La, ma non la è domanda forza. È: un pilota e una cura di questo tipo sono in contraddizione, come minimo? Assoluta. Assoluta, sono in antitesi, sono acqua e olio. Un pilota deve stare sotto un certo peso, non deve gonfiarsi, non deve essere contratto, non deve essere legato, ma è solo stretching, non mangiare, muscolo lungo e resistenza fisica, riflessi. Quindi va in antitesi a quella che invece è il corpo scultoreo. Lui ha preferito la strada del bronzo di Riace e quindi alla fine, perché comunque lui da quel mondo lì è affascinato, è inutile negarlo. Off record, quando lo intervistai per Riders, lui ci disse: oh ragazzi, io voglio arrivare a Belen. Ma lui non la conosceva ancora, quindi cioè, ma lui ce lo ricordo, disse, lo scrive, ricordo come no? Lui, che noi, io e il mio caporedattore, rimanemmo basiti, ma questo veramente, cioè, ma ce l'aveva in testa, quindi lui, quella è la sua motivazione, la sua ragione di vita. Poi il talento che ha è mostruoso, lo dicono tutti, perché è l'unico che ha battuto Markins in Moto2, è l'unico che ha fatto vedere certe cose, è lui, quindi è donato, è dotato e è stato donato da... dal signore come manetta, però purtroppo è molto attratto da quel cote lì che ha delle regole, delle cose, è per quello che io dico, per apparire devi rischiare nel suo caso. Sì, non guarda, delle due, cioè è chiaro, puoi avere il talento, però se no, non hai più le motivazioni e insomma una condanna in questo caso sarebbe una condanna direi sportiva, nel senso che non fai più il pilota perché non hai più le motivazioni, è evidente che ti interessano altre cose, non c'è nulla di male in questo, però almeno per essere chiari, no? Visto che fai ancora professionista, posso darti solo ragione. Poi non siamo noi giudici e non bisogna dare sentenze, chiaro, perché chiaro. Saranno i fatti a dimostrare, però è logico che una serie di cose, una serie di indizi, una serie di percorsi ti portano a pensare quello. Cioè ragazzi, ha cambiato fisionomia, poi adesso non entro nel gossip perché però ha preso uno stile, un corona style, cioè sappiamo tutti, no? Però parliamo di sport e rimaniamo su quel, in quel campo lì, dai. Va bene, Roberto, grazie mille. Grazie. A te. Ciao Roberto Ungaro. Allora, ci fermiamo per la borsa, poi torniamo sempre per Luigi Pardo e con Filippo Maria Ricci, perché oltre al compleanno di CR7 un sacco di notizie arrivano dalla Spagna, compreso, ne abbiamo accennato prima, Messi che insomma fa fuori Abidal DS del Barça. Siamo tutti veramente curiosi di vedere come finirà questo derby tra l'Inter ed Ibra. Tutti convocati anche su WhatsApp. Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati. Pace. All the way through and in. I think he'll claim that. Cristiano Ronaldo's first goal for United. Secondo palo c'è Ronaldo, rete! È salito in cielo Ronaldo, ha preso l'ascensore e segna un gran gol. Palla per Cristiano Ronaldo in mezzo e sono sei. L'avevi chiamato. Terzo gol per Cristiano Ronaldo, 37esimo delle ultime 30 in nazionale. Vabbè, facciamo, è lunga. Facciamo la conta, aggiorniamo la conta. Mundo Grillo. Spettacolo. Ma perché vedi, Pierluigi Pardo, dato che non solo tu ma tutti noi siamo intrisi di gobbitudine, sì, e allora facciamo anche noi gli auguri a Cristiano Ronaldo, no, a tutti quanti insieme, anche Dario Ricci a Olimpia domenica alle 16:30, dedicherà tutto a Cristiano Ronaldo, ma perché siamo in crisi di gobbitudine, mica perché è un grande dello sport. Gobbitudine. Siamo in crisi di tutto, non scherziamo, siamo in crisi di passione per lo sport, per i grandi atleti, per i campioni. Questo è un compleanno tondo, perché 35 anni sono un passaggio importante nella carriera di uno sportivo. Qualche mese fa sembrava che ci potesse essere un minimo calo, è un sospetto che anche qualche tifoso della Juve mi ha raccontato, e poi lui ha reagito per l'ennesima volta alla Ronaldo. È un campione incredibile. Io continuo ad adottare il lodo Cassano, che secondo me è perfetto, il paragone con Federer e Nadal. Per me lui è assolutamente Nadal, nel senso che stiamo parlando di due geni assoluti e non bisogna per forza schierarsi da una parte o dall'altra, però le caratteristiche sono molto chiare. Cioè, nella genialità, Federer e Messi sono due ancora più creativi, e mentre Federer e Nadal sono due più fisici, più applicati, che hanno ottenuto quei risultati attraverso il lavoro. È difficile veramente dire chi sia più forte, ci sono stati vari anni, vari momenti. Probabilmente la creatività di Messi è superiore, la continuità che però Cristiano Ronaldo ha avuto negli anni scorsi per alcuni tratti me l'ha fatto preferire, no? Quel periodo in cui assolutamente c'era, no, poi c'è anche il fatto che secondo me non è trascurabile che lui comunque ha vinto a Manchester, ha vinto a Madrid, esatto, e adesso vediamo a Torino. Ha vinto anche col Portogallo, ovviamente, che comunque era un outsider in quello europeo. Questo secondo me è un grande valore aggiunto. Elemento di uscita dalla comfort zone manca, però ti ripeto, stiamo parlando di eccellenze assolute. Qualunque maglietta vestano, poi c'è Cristiano Ronaldo atteso al Festival di Sanremo, pare, dicono le ultime, che gli abbiano riservato una delle poltronissime, pare che abbia prenotato il ristorante tutto per lui e per Giorgina a Sanremo. Qui vale anche un bel chi se ne frega, però tanti auguri a Cristiano Ronaldo, vero Filippo Maria Ricci? Ma è chiaro, tanti auguri. Quanti compleanni hai festeggiato tu con CR7? Svariati. Sì, sono 9 qua, no? 9. E quante volte l'hai visto, messo in dubbio? Ma guarda che è diventato un po' vecchio, un po' anziano, c'ha qualche ruga. Qui è stato fischiato, è bellissimo. Qua solo a Madrid si possono fare certe cose. È stato fischiato più di una volta, è stupendo, dai. Senti, questo pubblico meraviglioso. Invece... Io ho fischiato Cristiano Ronaldo, dai. Sì. ma sai, lì se non chiedi a Capello, c'è l'eccellenza, l'esigenza, è così. Anche allo stesso Mourinho, insomma, non, anche questi non sono stati amatissimi. Mentre Messi, insaziabile, si sta divorando, scrivi tu in queste ore dalla Spagna, a Vidal. Sì, ma Vidal è, come si può dire, è un piattino, è un antipasto di quello del banchetto di Messi, perché è chiaro che Vidal è stato mandato al fronte senza essere preparato, no? Perché vedete cosa è successo: hanno fatto un mercato pessimo, no? Si sono ritrovati con 16 giocatori, hanno venduto chiunque comprando nessuno, poi però fanno sapere che hanno messo una clausola da mezzo miliardo, questo Trincao, che poi vedremo, magari è un fenomeno, però insomma ha giocato 4 partite in campionato portoghese, costato 31 milioni, vabbè, chiudono il mercato, poi gli si fa male anche Dembélé. L'ambito direttivo è sotto accusa. Bartomeu dice: no, dai, Abidal, fai un paio di interviste per calmare le acque. E lui ci è riuscito perfettamente. Esatto, è andato lì. Prima cosa ha sparato a zero su Xavi, che insomma, una cosa, diciamo, prima di uccidere, diciamo, di ammainare una bandiera, se no ci devi sempre pensare. Anche perché poi, giustamente, qui stanno anche ricordando che la famosa Champions, no, vinta dal Barcellona con Abidal, che era ritornato dopo l'operazione, e Puyol e Xavi, i due capitani, gli avevano lasciato alzare la coppa. Quindi, comunque, un bel gesto. Diciamo, oggi cancellato, diciamo, da questa, ha fatto un attacco frontale a Xavi, assolutamente fuori, diciamo, sopra le righe. Vabbè, ma ancora lì, vabbè. Poi dopo viene a dire che lo spogliatoio praticamente non lavoravano, che qualcuno era contro Valverde, senza fare un nome così, cioè, riuscire a far arrabbiare Messi mi sembra veramente fenomenale. Però è chiaro che la bordata di Messi non è ad Abidal, che conta quello che conta, che magari stasera verrà anche licenziato, ma la bordata è diretta a questa direzione e quindi soprattutto a Bartomeu, al presidente, che ne sta facendo una dopo l'altra, perché questa è la situazione. E quindi qua si è schiacciato il tasto dell'autodistruzione, Cioè, bisogna ricordare, io oggi adesso ho fatto un altro pezzo della Gazzetta su Gazzetta.it, ricordo nelle ultime settimane una dopo l'altra. Vidal li ha denunciati, poi dopo il giudice non ha accolto la sua causa, però un giocatore che denuncia il suo club per dei premi non pagati già mi sembra strano. Domenica Rakitic è andato a dire no, hanno fatto delle cose che non mi sono piaciute. Valverde è stato calpestato e non se lo meritava, comunque il Barcellona quando era primo in classifica, adesso già non lo è più, no? E ha vinto due ligas, sì, ci sono stati dei problemi, però o me lo cacci via dopo Anfield, ma adesso era assolutamente inutile. Provi a prendere Xavi e fai una figuraccia. Provi a prendere Koeman e fai una figuraccia. Poi te prendi sto povero Quique Setién, 61 anni, al debutto in Champions, non ha finito manco 4 liga. Cioè, va no, bene, ma è la descrizione, è una descrizione da fine impero. Non so se Pierluigi, esatto. Non so se stai pensando anche tu quello che sto pensando io. Non so cosa stai pensando tu, io sto pensando che è incredibile. Perché tu sicuramente hai un concetto un pochino più originale, non lo so, tu cosa no, pensi? No, io sto pensando a Napoli. Sto pensando a un Napoli che in salute decente se la gioca, se le cose sono così, e sappiamo bene quando, quando arrivi guarda, a fine corsa vale tutto. Io ho fatto la telecronaca di Napoli-Liverpool, quindi l'ho visti con i miei occhi e so che Napoli secondo me da un punto di vista di condizione e di qualità teorica può fare grandi partite. Poi ha fatto partite pessime, in ritardo in campionato, ancora mille difetti, non sono nemmeno convinto che abbia completamente svoltato, però insomma, i segnali delle ultime partite sono incoraggianti. Certo, bisogna approfittarne anche perché negli ultimi anni, come ci ricorda spesso l'amico Ricci, il Barcellona prende degli schiaffi in giro per l'Europa abbastanza clamorosi. Cioè non è una squadra in Europa nelle ultime stagioni completamente solida, è quello che è successo con la Roma, al netto dei meriti della Roma è clamoroso quello che era successo con la Juve col 3-0 a Torino e poi lo 0-0 in Catalogna e poi quello che è successo l'anno scorso a Liverpool dopo un'andata che sembrava averli messi a riparo. Cioè, è una squadra che ultimamente quando va in difficoltà non è che piove, diluvia, esatto, e quindi bisogna crederci. Esatto. Però se a questo aggiungi, Filippo, metti nello scenario più apocalittico che insomma il Barcellona dovesse uscire col Napoli, a me sono concesso bla bla bla, ne parleremo, lo scopriremo vivendo. Però dovesse succedere questo, dovesse andare buca la Liga, cosa estremamente probabile, messi diciamo non esattamente di buon umore, potrebbero aprirsi anche degli scenari di mercato pazzeschi. Sicuramente, cioè questa idea. Allora, tu mi dici, oggi mi fai la domanda, dice Messi se ne va, vogliamo fare così, Messi, e oggi ti dico no. Però poi magari me la rifai tra un mese e ti dico vediamo, perché la situazione è questa, è la cosa grave ed è questa la vera preoccupazione del tifoso del Barcellona. Cioè, allora, adesso, tanto domani c'è un'altra partita importante, domani giocano in Coppa del Re a San Mamés contro l'Atletico. L'Atletico quest'anno non è un granché, è un po' in crisi, fa fatica a vincere, comunque resta una partita di Coppa tipica, San Mamés, grande atmosfera, se dovessero uscire anche da lì e se ne va un altro trofeo, no? E vediamo come reagiscono. In attacco in questo momento hanno solo Messi, Griezmann e Ansu Fati. Griezmann che ancora non si è inserito in questa squadra, non sa bene come giocare, e Ansu Fati, poveretto, c'ha 17 anni, per cui insomma più di tanto non gli possiamo chiedere. E questa è la situazione, per questo che Messi alza la voce, perché comunque non puoi tu chiudere un mercato facendo finta di andare a prendere Rodrigo Moreno quando non c'hai i soldi. Questa frase tremenda del presidente del Valencia dice non si fanno gli affari senza soldi. Ma il Barcellona ha i soldi oppure no in questo momento? No, non ce li ha, perché questa appunto è la stessa frase che disse Leonardo quando provarono a prendere Neymar. Uguale, ho detto non puoi venire qua a chiedere un giocatore se non c'hai i soldi, e adesso l'hanno rifatto con Rodrigo Moreno. Però poi appunto, perché come fanno a buttare via 31 milioni per Trincao, che vuoi dire, per quanto possa diventare, no, il nuovo Ronaldo, insomma, ma perché non ci sono i soldi? Perché hanno buttato via 300 milioni tra Dembélé e Coutinho e non c'era nessun bisogno di fare operazioni del genere. Allora, loro adesso, hanno gestito malissimo il post Neymar, perché tutto il mondo sapeva che avevano i soldi. Esatto. Li hanno spesi troppi, di fretta, con la necessità di dover fare delle cose, non dico che fosse facile. Messi lì è contentino, è casa sua, è lì dal 2000, sono 20 anni che sta lì, però attenzione, diciamo, qual è il grande cambio? Che prima l'ipotesi di andarsi a prendere Messi era impossibile, c'era una clausola da 700 milioni, no? Oltre non c'era, una sola ragione per cui... Esatto. Adesso quella clausola a giugno non c'è più. Cioè Messi è svincolato. Allora, è chiaro che guadagna 50 milioni netti, però è svincolato. non se ne vuole andare, no, tutto po', però insomma almeno adesso qualcuno può alzare il telefono e dirgli, certo, vabbè, certo, so che non te ne vuoi andare, però sappi che se per caso cambi idea io sono qua. Certo, ovviamente, certo, sono pochi i club che lo possono fare, però questa è la situazione. No, ed però è quello... lo scenario è profondamente diverso rispetto a quanto, esatto, potevamo immaginare anche soltanto pochi mesi fa. Allora fermiamoci un attimo per il traffico. Già ti avverto che c'è un Marco da Bergamo che scrive un WhatsApp che è questo: puoi chiedere a Filippo Verrarici i numi sul Valencia, come arriva la doppia sfida con l'Atalanta. Valencia che è stato battuto dal Granada con Florenzi in campo soltanto 3 minuti, però le speranze dell'Atalanta secondo me sono legittime. Traffico. Siete tutti convocati anche sui social. Anche sui social. Social. Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Tutti convocati. Dunque, sul caso Messi ogni commento vale. WhatsApp vocali 349-238-6666, 800-24-0024, numero delle telefonate. Invece, capitolo Valencia, battuto il Granada, dicevo, Florenzi solo 3 minuti in campo e Atalanta che continua a fare sogni grandi. E c'ha ragione, guarda, io quando c'è stato il sorteggio avevo detto 50-50. Adesso per me siamo a 60 o più per l'Atalanta e te lo diciamo, c'è una ragione anche molto molto pratica di campo. Il Valencia non ha i difensori centrali perché Garay si è rotto, Gabriel Paulista è squalificato e quindi ne restano due, uno è Diakabi, insomma, normale, e l'altro è Mangala che nell'ultimo anno solare ha giocato 3 partite, di solito non viene neanche convocato. Quindi o si inventano un'altra soluzione, non so, possono arretrare con Dogbia o qualcuno, così. Comunque questa è la situazione al momento. Ed è il tutto complicato da quanto è successo a Rodrigo Moreno, appunto, che è stato, sembrava di non dovesse andare al Barça, insomma c'è una situazione sempre molto complessa, per cui l'Atalanta, che comunque in attacco 2 o 3 cose le sa fare, contro una difesa assolutamente rimaneggiata, come si diceva una volta, e per me ha delle grandi chance. E siamo arrivati per Luigi al colmo dei colmi, cioè alla vigilia della ripresa della Champions e degli ottavi, quella messa meglio tra le 3 italiane e l'Atalanta. O quasi. No, quella messa meglio, no? Vabbè, ho capito, ma sto forzando. Io sia favorita con Lione. Sì, favorita con Lione, però veramente per l'Atalanta sembra il delitto, ragazzi, perfetto. Sì, sembra, tra l'altro, non so se ti ricordi che divinamente avevo previsto quel sorteggio con Valencia, non so come, momento della mia vita. Insomma, è chiaro che è giocabile, sono 2 squadre simili. Ma la sfida con Lizia sarebbe stata forse proprio l'apoteosi del calcio divertente. Ma insomma sono 2 squadre di livello simile, per cui io non so se sia 60-40, me lo auguro, i problemi del Valencia sono oggettivi, anche se è 50-50 va bene uguale, insomma sarà bellissimo raccontarla. E il Napoli qualche spiraglietto ce l'ha, quindi diciamo la Juve sta a 70-75, l'Atalanta sta a 50 e il Napoli sta a 30%, deve in crescita, crederci. In crescita viste le gravi del mercato. Certo che deve crederci. Prezzi alle stelle, da una parte e dall'altra, perché c'è molto dibattito sul fatto che per vedere sta partita sia a Napoli che a Barcellona, peraltro devi scucire come minimo 70 euro. Io trovo che non ci sia niente di sbagliato in questo. Vuoi vedere un grande spettacolo o per vedere quelle partite lì è normale che ognuno faccia i suoi conti. Sì, ma magari sarebbe bello avere degli stadi all'altezza del grande spettacolo, ma questo è un altro discorso. Vabbè, questo ci porta lontano. Non sono del tutto d'accordo, però Carlo, perché già c'hai parlo soprattutto del settore ospiti, cioè comunque tu hai già, si parla già di spese per un volo e spesso per un albergo. Per me le società per un settore che è limitato così potrebbero fare con uno sforzo e magari mettere appunto il biglietto a 35-40 euro, secondo me. Però dopodiché poi appunto se poi ci aggiungiamo che gli stadi sono quello che sono, va bene. Ma anche a fronte di stadi meravigliosi, se vai considerando che il tifoso comunque fa già uno sforzo economico importante, per me dovrebbero ridurre i prezzi. Però prezzi più democratici, sì, insomma. Sì, secondo me sì. Ma secondo me vuoi vedere quello spettacolo lì che è il massimo che c'è. No, però se sei a casa sì, però andando fuori comunque, cioè, tu c'hai un esborso, un volo che può essere 150-200 euro, una camera d'albergo altrettanto. Sì, no, ti costa comunque un sacco di soldi, cioè secondo me se uno vuole andare esatto. a vedersi Barcellona-Napoli avrà cominciato a risparmiare per tempo, non credo sia che sia dissuaso da quei 35 che risparmierebbe. No, era un bel gesto. Sì. Buon gesto. Volevo chiedervi, ragazzi, se condividete il mio applauso in piedi per Jürgen Klopp, che è sempre più idolo, che ha mandato la prima squadra in vacanza, cioè chi è alle Maldive, chi è negli Stati Uniti, chi è in Costa Azzurra, eccetera. Ragazzi, prendetevi una settimana libera. Questo accade ai primi di febbraio, cioè non esattamente a così, vacanze di Natale, eccetera. Perché avete giocato troppo. Andate in vacanza, riposatevi, faccio giocare in FA Cup la primavera, che comunque ha vinto contro una squadra dei campionati inferiori, però tutti quanti in vacanza, credo lui sia rimasto lì perché deve presidiare la nave, che va benissimo peraltro, però gesto di cui non ricordo precedenti, non so tu Piero. No, insomma, Klopp in questo momento può fare tutto, può fare talmente tutto. Figo, ha talmente tanta leadership, talmente tanto credito tra i suoi tifosi, tra i suoi giocatori e tutto l'ambiente del calcio mondiale che può permettersi di fare tutto. Lui ha veramente una leadership fortissima, ma molto solare, da quello che si capisce, da quello che si vede, molto partecipata, molto aperta. Tutt'altro che il sergente di ferro, diciamo, e quindi costruisce, continua a costruire questo tipo di modello che sta funzionando tantissimo, per cui se l'ha fatto è perché sa che se lo può permettere. Non, certamente non l'ha fatto per fare un beau geste, se l'ha fatto perché pensa che questa cosa alla lunga gli potrà dare dei vantaggi. Non ha cercato un ulteriore motivo per finire sui giornali, dato che è già abbastanza esposto, no Filippo? Sì, non credo e pensa come sono cambiati i tempi, perché io mi ricordo, io ero lì a Londra quando Sir Alex Ferguson decise di rinunciare a un turno di FA Cup per andare a giocare il mondiale per club, e fu crocifisso per questo, con tutto che era Sir Alex e con tutto che era il Manchester United che vinceva tutto e che lo faceva per motivi politici, per aiutare il calcio inglese. Adesso più o meno nessuno ha detto niente, o comunque le lamentele sono state molto contenute, quindi sono cambiati in più o meno 20 anni, se non mi ricordo l'anno preciso, a 2000-2001 se non sbaglio, in meno di 20 anni sono cambiate tantissimo le cose, anche la percezione degli inglesi per questo mostro sacro che è la FA Cup. Sì, d'altra parte forse ha ragione Pierluigi quando dice che in questo momento Klopp può permettersi tutto, cioè sì, sta spadroneggiando sulla esatto. Premier, ha la Coppa dei Campioni in mano, vedi tu cosa gli manca. No. Era per rafforzare le parole di Pier, insomma, che questo è un totem che lui gli ha dato un po' una scossettina al totem e non è successo niente, insomma, gli ha fatto come se avesse fatto una scritta sopra e tutto a posto, insomma, si può permettere qualsiasi cosa e comunque di fondo ha ragione, perché non possono gli inglesi continuare a lamentarsi, ah si gioca troppo, poi dopo la prima volta, diciamo, c'è una mezza occasione di vacanza gli era rovina, insomma, sì, lui l'aveva già fatto questo, tra l'altro lui aveva già fatto la stessa cosa in Coppa di Lega, lì gli era andata male, no? Aveva perso. Giocando con le riserve, perché c'aveva una partita il giorno dopo, cioè vuol dire anche chi fa i calendari, veramente complimenti. È chiaro che lì il discorso vero è sui replay. I replay ormai ci sono solo in Inghilterra e sembrano anacronistici, però è chiaro che io, se sono un club piccolo, apprezzo i replay, ovvio. Perché allo però su calendari così intasati diventa una variabile che non ti puoi permettere, evidentemente. No, esatto, è molto romantico, però insomma, e conta che adesso poi, diciamo, da qualche anno, da quando io ero lì, hanno messo in fondo supplementare i rigori, prima si ripeteva ad oltranza, sì. Per cui ci potevi giocare anche 5 volte, sì, sì. Per cui insomma, come sono buoni, gli ha messo supplementari e rigori. Se preferisce era un paradiso, c'è, non c'è grande romanticismo in Inghilterra, che forse in questi tempi così meno romantici non ci si può permettere, esatto, non sono più tempi esatto. Così peccato, romantici, peccato. Così. Ciao ragazzi, grazie, ciao Filippo, ciao Pierluigi, ci sentiamo domani anche con tutti voi, Claudio Schiattone il nostro autore, Gianmarco Ferronati in regia, ciao a tutti. Minchia, è stato una montagna russa. Ci vediamo domani. Enjoy. Saluti.